Ecco gli antipasti. Buon appetito. Grazie. Grazie. Oh, it looks beautiful. Oh, it's a huge portion. No, è una porzione normale. Allora, buon appetito. Buon appetito.